9 in punto, la versione di Oscar. Oh, ed eccoci anche questa settimana. Sì, anche questa settimana apriamo con i Doors in sottofondo con The End. E perché lo facciamo? Perché ci siamo lasciati venerdì. Sapete che lascio sempre qualche minuto iniziale alle considerazioni intorno alla ragione che da questi mesi ci spinge ad aprire e chiudere sempre con questa canzone dei Doors, ed è relativa alla crisi dell'euro, ovviamente. In questi ultimi giorni abbiamo visto dei segni che il mercato ha apprezzato di rasserenamento, perché essenzialmente l'America, il Fondo Monetario Internazionale, a Davos riservatamente, ad Atene e a Berlino, ha spiegato come sull'accordo per gli haircut, il taglio dei capelli, cioè il taglio del valore della carta pubblica greca detenuta dai bondholder, da chi ha comprato i titoli greci, non poteva essere, agli occhi di Washington, del fondo e di Obama, che è sotto conferma alle elezioni del prossimo novembre, l'occasione in quest'anno per far esplodere la tensione mondiale. Quindi gli americani, il Fondo Monetario, hanno spiegato con durezza a Berlino che bisogna accontentare le ulteriori, diciamo, ragionevoli pretese greche, e l'effetto di questa pressione, il che significa che BCE e FSF devono aggiungersi nella percentuale di perdita dei titoli greci, oltre a quella prevista per le banche, e allo sforzo delle banche, oltre al taglio del 50%, di compartecipare al riscadenzamento di quello che hanno a lunga durata, oltre i 30 anni, a un tasso più vicino al 3 che al 4%, che anche la BCE e l'FSF devono compartecipare. In più avete visto che in questi giorni, ed è questo il fiorire sulla stampa internazionale in questo fine settimana che mi preme ricordarvi, perché non c'è stato grande giornale europeo, dalla Frankfurter Allgemeine al Financial Times, Deutschland, alle Figaro, alle Monde, che non abbiano dedicato fior di pagine tra sabato e domenica al tema del passo avanti che i tedeschi stanno compiendo in questi giorni, effettivamente da tutti ricondotto esattamente a questa pressione americana. Una pressione molto forte, evidentemente l'America conta ancora qualcosa, meno di prima, ma conta, perché i tedeschi hanno iniziato, nelle loro fonti ufficiali, ad ammettere che al Consiglio europeo di oggi, al vertice europeo straordinario di oggi, qualche passo in avanti per l'aumento delle dotazioni dell'FSF e dell'ESM che gli subentrerà anticipato dal prossimo mese di luglio ci saranno. Non si arriva al trilione di euro, cioè 1.000 miliardi di euro, ma quantomeno 750, però più o meno l'aria è diventata questa. Questo è il motivo per cui gli spread hanno iniziato a scendere. Anche stamattina il decennale italiano è intorno a quota 409-411. Vedremo a questo punto, più tardi in giornata, nella notte e domani mattina, quali saranno gli sviluppi del summit europeo. Sapete che al summit europeo, oltretutto, il presidente del Consiglio Mario Monti porta una posizione a nome, a quanto pare, di un numero di paesi dell'Unione Europea molto ampio, che è favorevole non solo, perché su questo c'è già stato l'accordo, a rinviare a darsi un altro anno in più per gli obiettivi di rientro del debito pubblico, cominciando quindi dal 2014, non dal 2013, e non solo per la correzione anche delle manovre da assumere nel 2012 e 2013 per la cosiddetta correzione per l'andamento del ciclo, quindi essendoci recessione forte che si aspetta un allentamento degli obiettivi già raggiunti, ma anche nel nostro caso l'inserimento del totale del patrimonio privato delle famiglie accanto al patrimonio pubblico nelle garanzie per il debito pubblico. Quindi significa che, siccome gli italiani hanno più risparmio e più patrimonio, i nostri conti dovrebbero essere valutati con un occhio più benefico. Questo è quanto per la parte europea di oggi. Io mi limito a dire speriamo, tuttavia fino a che noi non vediamo cose concrete sul salvastati e salvabanche, noi ci teniamo ai Doors. Che cosa è evidente? Evidente oramai l'errore fatto nel maggio del 2010, quando i tedeschi chiesero e ottennero vennero questo meccanismo di compartecipazione dei privati all'eventualità di fallimento dei paesi, incitarono tutti i mercati a credere che il fallimento default potesse avvenire, cioè che si lasciassero paesi a questo destino. Questa è la ragione dello scatenamento fino a oggi, e sul punto della tenuta greca si misura se poi oltre la Grecia esce dall'euro, perché se la Grecia decide unilateralmente di non ottemperare esce dall'euro, e a quel punto ci abbiamo il Portogallo dopo 3 settimane e noi dopo qualche mese. Finché non vediamo questo, noi i Dors li teniamo. Ultima paio di osservazioni, questa volta dedicate alla stampa italiana, Corriere della Sera. Oggi è mio dovere dire che trovo l'editoriale del Corriere della Sera, Alberto Lesini e Francesco Giavazzi, di solito così tempestivi nel sostenere il governo, nell'indicare le successive tappe dell'agenda del governo, quando si tratta oggi di dire spendere meno, la tesi non è impossibile, li ho trovati con i pantaloni abbassati, uso un linguaggio volutamente aspro, non quantificare da parte loro in diversi punti di PIL, 8-10 la diminuzione della spesa pubblica in termini pluriennali, però significa 7-8 anni, non di più, che ha deve conoscere attualmente la finanza pubblica italiana, ed è tutto incoerente con la durezza con cui essi intervengono su altri argomenti, e oltretutto inizio a pensare che ci sia qualcosa dietro anche al Corriere della Sera, che ritiene di non dover incalzare su questo fronte la difesa, la diminuzione della spesa pubblica e il perimetro pubblico, evidentemente il governo. Lo dico questo perché, e ho concluso perché poi andiamo al tema di oggi, ieri mi ha molto colpito nel fascicolo domenicale delle letture del Corriere della Sera una roba che ho trovato veramente, dal mio punto di vista, incomprensibile, e cui tutti coloro dell'Istituto Bruno Leoni che hanno lavorato per far capire in queste settimane quanto giuste alcune e quanto lontane altre fossero le liberalizzazioni assunte dal governo da liberalizzazioni vere, quelle che si definiscono in questo termine in tutti i mercati mondiali, visto che facciamo da anni un rapporto che è diventato il punto di riferimento dell'intera comunità scientifica italiana, ecco, siamo stati descritti in un articolo sul Corriere della Sera come un pugno di mistici, fanatici, che hanno una religione identitaria autorisolta. Io mi gratto la testa di fronte a un Corriere della Sera di questo tipo. È evidente che il sostegno, essendo il battistero del governo, tendono a scambiare un po' i vecchi ruoli che avevano il Giornale Libero. A me non piaceva il Giornale Libero, che dicevano che Berlusconi aveva sempre ragione, ma se oggi devo leggere sul Corriere della Sera che spendere meno non è impossibile, quando mi aspettavo che richiamassero l'esempio di paesi come di democrazia welfarista, come la Germania, l'Australia, la Nuova Zelanda, che sono scesi di 8-10 punti di PIL prima della crisi, a parità di imposte, hanno un welfare che funziona, la differenza è che crescono molto di più. E mi aspetto questo da giornali che svolgono con autonomia e indipendenza il loro mestiere, non che modulino, come un tempo facevano i giornali del centrodestra, nei confronti del governo attuale atteggiamenti così caudatari. Punto, fine dell'introduzione quotidiana, e andiamo invece all'argomento di oggi. L'argomento di oggi che ha a che vedere con un interrogativo che nei giorni precedenti alla fine settimana è tornato di grande attualità. Non era nuovo, perché stiamo parlando della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020, è una scelta che in sede di Comitato Olimpico arriva nel 2013, purtuttavia, come ovvio, la credibilità delle candidature si costruisce nel percorso precedente rispetto alle alleanze internazionali, ai candidati concorrenti, che anche in questo caso per il 2020 sono numerosi, e in questo fine settimana e nei giorni finali della settimana precedente è tornata di attualità il tema se venga o meno candidare Roma alle Olimpiadi del 2020. L'iter del dossier di candidatura sta andando avanti in realtà da oltre un anno, perché all'inizio del 2011 ci sono stati gli eventi pubblici che già coronavano convergenza istituzionale e del fronte delle imprese a Roma per il sostegno, per il lancio della candidatura. È nata una fondazione, si sono fatte numerose attività. Nel frattempo è stato illustrato un bilancio dell'impatto nazionale che si stima superiore a un punto di PIL in caso di aggiudicazione a Roma delle Olimpiadi. Nel frattempo l'emergenza finanziaria pubblica ha imposto poi anche di abbassare gli obiettivi di spesa, quindi è stata fatta una revisione al ribasso dell'analisi costi ricavi e soprattutto dell'impatto diretto della spesa pubblica, ma resta il fatto fatto che il governo ancora venerdì scorso ha preso tempo, il Presidente del Consiglio Mario Monti ha chiesto sicurezza e garanzia in ordine agli esborsi pubblici. C'è stato chi nel mondo dello sport, come Pietro Mennea, ha detto ma stiamo scherzando rispetto alle priorità che il nostro Paese ha lasciato indietro nell'economia nazionale, nelle infrastrutture, negli investimenti, non possiamo davvero considerare che le Olimpiadi del 2020 a Roma siano una priorità. Altri sportivi come Yuri Chechi e ovviamente come Mario Pescante, che si rese disponibile per presiedere il comitato per le Olimpiadi a Roma del 2020, hanno risposto dicendo ma non è così, assolutamente no. Ora noi tentiamo, oltre a invitarvi a chiamare all'800240024 con i nostri ospiti, di chiarirvi e di chiarirci ulteriormente le idee in ordine a ciò che ci hanno insegnato esperienze olimpiche negli altri paesi alle nostre spalle, perché ci sono state esperienze olimpiche che rappresentano un benchmark positivo di ciò che è speso e di ciò che è rimasto sul territorio e nelle economia di un paese, come ci sono poi esempi invece di Olimpiadi da questo punto di vista che insegnano esattamente ciò che non bisogna fare. Ma soprattutto la domanda è: noi come paese, alla luce di quello che abbiamo fatto, il mondiale di nuoto a Roma, tutte le discussioni che ci sono state e così via, siamo in condizioni di onorare al meglio, oppure poi ci esponiamo a figure polemiche e impugnative giudiziarie, come spesso è già successo negli ultimi anni? Le Olimpiadi invernali a Torino, mia città, furono un grande successo. Io ero uno scettico, devo dirvi la verità. Poi devo ammettere, sia pure con problemi irrisolti per gli impianti successivi, perché per molti dei quali puntualmente è finito che non ce l'utilizzo, malgrado gli impegni che erano stati assunti, l'impatto sulla mia città delle amministrazioni pubbliche è stato un impatto che io non posso che giudicare, tutto il mondo ha giudicato positivo. Roma ha un bilancio un po' diverso, io non voglio vivere di pregiudizi, inizio a presentarvi e a chiedere ai nostri ospiti come la pensano. Allora abbiamo innanzitutto, io in studio, Andrea Zorzi, ex pallavolista, argento alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, buongiorno e grazie Andrea. Buongiorno, ben trovati. Poi abbiamo il direttore generale della Fondazione per Roma 2020, Paolo Bellino, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti. Mario Pescante, che è membro per l'Italia del Comitato Internazionale Olimpico e presiede appunto il Comitato Promotore di Roma 2020. Buongiorno e grazie Pescante. Buongiorno a voi. Allora, Presidente Pescante, e comincio obbligatoriamente da lei. Per il pubblico a casa che non ha seguito l'iter del dossier di candidatura, delle prime stime di spesa per la parte pubblica e per la parte non pubblica, e dell'impatto conseguente di ciò che resta, di ciò che resterebbe a Roma e all'economia nazionale del dossier, e quindi non sa che sono già state riviste e rimesse a punto, vorrebbe ripuntualizzare solo in qual è l'ultima stima, diciamo, di spesa pubblica, in che cosa è invece l'analisi costi ricavi, quanto la spesa pubblica prevista e quanto il concorso di altri genererebbe e lascerebbe all'Italia e creerebbe all'economia di Roma e non solo a quella di Roma nel caso in cui le cose andassero bene? Ma guardi, io intanto vorrei sfuggire a questa ansia che c'è nel nostro paese di improvvisarsi economisti in tutti i settori, voglio dire, no? Pronto, mi ascolta? Sì, certo, la sentiamo. Ecco, economisti, per cui rispetto a Mennea, che devo dire è uno dei personaggi più rappresentativi al nostro sport, che ci ha regalato giorni meravigliosi. Però non è il suo mestiere, lei dice. Anche Yuri Chechi, lo stesso sottoscritto che vi sta parlando, quindi io lascerei la parola agli economisti che lo fanno di mestiere, che sono considerati, stimati. Ecco, agli economisti abbiamo affidato questo compito, è una commissione presieduta dal professor Fortis con altri accademici. I dati che ci ha fornito e che sono all'esame del Presidente Monti sono molto chiari. Il fallimento di Atene è stato dovuto soprattutto a un sovradimensionamento, cioè basta pensare, andare a Atene e vedere la loro metropolitana, ma insomma è una cosa futurista. Altri paesi che hanno fatto ragioni più che hanno fatto Olimpiadi una ragione di crescita al loro bilancio, cito Barcellona, ma cito anche Torino, cito oggi Londra. Beh, insomma, il destino è stato diverso. In conclusione, noi praticamente con i nostri conti abbiamo previsto che di denaro pubblico, facendo una differenza tra le entrate e le uscite e senza considerare l'indotto, per indotto intendo dire l'afflusso di turismo, il miglioramento delle strutture della città di Roma, urbanistiche, anche il ritorno che avranno tutte le regioni italiane, dal nord al sud, beh, insomma, ecco, il denaro pubblico sarebbe intorno ai 5 miliardi, però, come si dice, brutta la parola, ma non sono economista, spalmabili fino al 2020. Tutto questo rende compatibile, secondo il rapporto Fortis. Per il resto però, non voglio fare l'economista, ma non voglio fare neanche il ragioniere contabile, facciamo anche un'altra considerazione. Prendo in prestito le parole non dei giapponesi che sono candidati, né degli amici di Doha o di Istanbul, ma quelli del governo spagnolo che hanno detto questo paese può mostrare al mondo che ha voglia di riscatto, che ha voglia di rivincita, che è fiduciosa nel futuro, bisogna dare questa sferzata alla Spagna. Ecco, allora perdiamo, perché siccome poi con Bellino ritorniamo sui conti, ma lei rispetto alle altre candidature, Baku, Tokyo, Doha, Madrid, che ha esaminato proprio il dossier del Consiglio dei Ministri, anche lì con le elezioni ne hanno discusso molto, però ragioni pare che, sia pure dopo molte perplessità, risostenga con forza la candidatura. Lei ritiene che rispetto a queste candidature alternative noi avremo dei buoni numeri al Comitato Olimpico? Guardi, adesso non passiamo, se parla numeri intesi come voti, questo è un altro discorso, e Rita l'ha introdotto molto bene lei quando ha detto che i ritardi della risposta governativa mi auguro che vengano intesi così come li intendo io, e cioè una valutazione attenta, prudente, a costi e benefici, come giusto che sia. Se vengono invece interpretati dai votanti, che ricordiamoci bene non sono i paesi, sono poco meno di 100 membri del CIO, autorevoli, molti, in grande maggioranza, personaggi dell'economia, della società mondiale e così via, se vengono interpretati come una preoccupazione, praticamente un atteggiamento negativo che sta per sforzo, mi auguro sarà forzato dall'opinione pubblica, dalle forze politiche, dalle forze sociali, beh, in questo modo la partenza sarà una partenza ritardata. Quindi concludendo, ma io considererei, al di là del discorso rigoroso dei conti, chi ha l'esame è il Presidente del Consiglio, ed è ovvio che il sottoscritto, tra l'altro parlamentare, non potrà che accettare quale sarà il verdetto. Poi le valutazioni personali sono altre, però io sono, non dico ottimista, ma fiducioso. Per il resto, beh, insomma, pensiamo anche al resto, all'Italia che ha bisogno, dopo questa prima fase, di sacrifici, di tagli, di costi, di riduzione di spese, ne avete parlato poco prima della trasmissione, ha bisogno anche di un discorso impostato sulla crescita e sugli investimenti, altrimenti si diventerà sempre più poveri. Ecco, adesso improvviso le mie nozioni di economista, si diventerà sempre più poveri e sarà molto difficile poi far fronte alle esigenze di ridurre il deficit di bilancio, perché se diminuiscono le fonti di risorse dello Stato perché il paese diventa più povero, beh, allora veramente c'è da occuparsi del futuro, ma non del futuro delle Olimpiadi. Pescante, resti con noi, perché sicuramente poi sono curioso di vedere anche gli ascoltatori come la pensano. Andrea Zorzi, certo l'esperienza di recenti cose in Italia non fa proprio pensare, non lo so. Guarda, io da ex atleta, dagli errori si impara, però a volte in Italia non si impara. Ma infatti, da ex atleta mi piacerebbe moltissimo che l'Italia potesse organizzare un'Olimpiade in Italia ben fatta, con tutto ciò che significa. È chiaro che anch'io, anche se non sono economista, do un'occhiata indietro e mi viene qualche piccolo dubbio. Dopodiché, ciò che mi dispiace un pochettino è che in questa fase di candidatura, senza entrare in termini troppo economici che non conosco, mi è mancato un po' l'idea di fare una discussione su quale potrebbe essere il ruolo di un evento sportivo, il massimo, l'Olimpiade, con dei riflessi sulla nostra cultura. E cioè, se lo sport è sempre solo quella specie di roba strana che non è un'azienda, perché si tratta di sport, però viene valutato con aspetti economici, ci perdiamo un pezzo grande del potere dello sport, del valore dello sport. Mi piacerebbe quindi dire: Roma, candidandosi al 2020, potrebbe diventare portatrice di un messaggio. Dove vogliamo che vada lo sport? Che ruolo potrebbe avere lo sport? Non escludendo gli aspetti economici, ma ricordandoci che lo sport non è un prodotto come altri, che viene venduto, ma va valutato con modalità un po' diverse. E se ti poni questa domanda, ciò che stai vedendo intorno a te in questi ultimi tempi, l'ultimo anno, due anni, attorno a che cos'è lo sport davvero secondo te nella vita pubblica italiana, al di là del puro evento, effetto economico, che considerazioni Guarda, fai? A livello europeo siamo la nazione che forse ha la più bassa cultura sportiva, perché noi equivochiamo e confondiamo lo sport solo con lo sport professionistico, spesso volentieri il calcio, e ci dimentichiamo invece che questo universo è molto di più, e non mi riferisco solo ai miei tanto amati sport minori, ma mi riferisco proprio alla normalità con cui la gente dovrebbe fare dell'attività sportiva, muoversi, pensare che lo sport li riguarda da vicino. Invece quando si pensa allo sport si pensa a guardare lo sport, a partecipare a qualche grande evento o a guardare quello che è adesso il calciomercato. In questo senso mi dispiace, perché lo sport si è, come dire, mangiato il vero grande valore, che è la legacy, che è il contatto con le persone normali. Questo è il valore a livello generale, non solo esclusivamente il bilancio delle squadre di calcio di Serie A o delle federazioni. Quando si dice Atene, in realtà è stato un errore, ma un errore del tutto in linea rispetto al comportamento pubblico che ha avuto quel paese, che poi l'ha portato, insomma, alla crisi, non può stare nell'euro e così via, ha peccato di mania di grandezza. Ecco, nelle Olimpiadi precedenti ci sono stati errori però sui quali, a tuo giudizio, c'è qualcosa che induce molti a ritenere, per esempio, che i giochi olimpici, al di là oggi di essere alla portata di paesi emergenti che affermano con quello il proprio modello organizzativo, ci investono e ci torna molto sopra e così via, per i più di paesi avanzati affrontare un evento come i giochi olimpici, che ha un forte impatto nei centri urbani, che appesantisce molto eccetera eccetera, è diventata quasi una cosa non conveniente. Tu però come hai visto crescere il movimento dello sport olimpico e così via, condividi questa impressione o no? Guarda, io credo che l'unica Olimpiade che fece in attivo fosse quella di Los Angeles. Uber Roth, che era il direttore generale, fu eletto uomo dell'anno per essere riuscito a chiudere un miracolo. Un miracolo. Barcellona non sarà finita in attivo, ma ha avuto un impatto positivissimo in quella città. Lo sappiamo tutti. Sydney è stata un'Olimpiade che ha permesso a gente che si sente molto molto molto lontana di sentirsi vicina, quindi una grande Olimpiade ben organizzata. Per Pechino l'investimento è stato mostruoso. Quindi, ma quella era una specie di potenza imperiale che mostrava al mondo la sua forza, cioè, non era un evento sportivo. Esatto. Quindi i due piani sono questi, non possiamo pensare che sia un affare. E come l'Expo a Milano 2015, pensare di farlo come i cinesi saremmo matti. E sull'Expo secondo me ci sono molte delle stesse domande che valgono per l'Olimpiade. L'Expo è dopodomani, tra un po' è pure... Quindi, partendo dal fatto che un'Olimpiade non può essere, come diceva il presidente Pescante, un'operazione da ragioniere, dice spendo tot e devo recuperare più soldi, però dobbiamo fare in modo che i vantaggi, il valore aggiunto di un cambiamento nella società sia veramente importante. Questo significa anche però avere una buona organizzazione e riuscire a fare, come dire, portare avanti dei progetti senza poi perdersi per strada. Eccoci tornati qui, stiamo parlando dell'ipotesi che ha nuovamente acceso il dibattito pubblico, sostenere o meno la candidatura di Roma per le Olimpiadi 2020, la scelta al Comitato Olimpico settembre 2013, ma in realtà il dossier della candidatura di Roma è nato alla fine del 2010, all'inizio del 2011, le prime iniziative pubbliche, la creazione della Fondazione Roma 2020, iniziative in cui il mondo delle imprese è andato a briglia sciolta, perché un'industria Roma e del Lazio è una forza che è in prima fila per sostenere fin dall'inizio il ritorno economico-finanziario, l'impatto dell'eventualità di riuscire ad aggiudicarsi i giochi. Però ancora oggi l'avete eletto, il Consiglio dei Ministri Mario Monti ha dei dubbi, ha chiesto tempi e garanzie, perché sul totale dei 4,7 miliardi a cui ammonterebbero le spese, con ritorni fiscali che vengono considerati nel dossier di candidatura più che vantaggiosi rispetto al totale della spesa, ha dei dubbi sulla parte pubblica immediata, sulla sostenibilità. Bisogna vedere se poi il Presidente Consiglio ha dei dubbi anche alla luce di effetti come quelli che poi si scatenano dopo Italia 90, per essere chiari, che sono ben chiari nella testa tutti noi, no? Sugli impianti, l'utilizzo dei posti italiano avanti, lo scandalo degli stati, insomma, ecco, non è che abbiamo fatto proprio una figura straordinaria. Anche lì mi tocca ricordare grandi nomi dell'impresa italiana erano impegnati in prima fila, non voglio criticarli ex post, ma i fatti sono questi. E abbiamo sentito intanto l'opinione di Mario Pescante, che è il presidente del comitato, quindi sostenitore, e l'opinione critica invece di uno sportivo come Andrea Zorzi, ex pallavolista argento alle Olimpiadi d'Atlanta. Chiedo a Paolo Bellino, direttore generale della Fondazione Roma 2020, di ascoltare con noi alcune telefonate iniziali dei nostri ascoltatori, per vedere poi di aiutarmi a rispondere. squadra dal suo punto di vista, quindi anche numeri e certezze ragionevoli, come tutto può essere ragionevole, nessuno può essere certo di nulla, ma una domanda certo c'è. L'Expo 2015 è stato assunto come una sfida nazionale proprio per dimostrare che non avevamo, per così dire, il sedere per terra. Roma c'ha comunque ogni 25 anni eventi di impatto clamoroso, perché l'anno santo, dopo quello del 2000, ricordate che cosa fu per Roma il 2000, ritorna al 2025, quindi molti sostengono darsi l'appuntamento per il 2020 non è nient'altro che rodare una macchina che poi bisogna rimettere in moto e che diventa appunto capace di impatti aggressivi di lungo periodo, ma che deve rientrare nella capacità di Roma, un coacervo che certo non ha un'efficienza pubblica molto elevata per ragioni storiche, in grado di gestire eventi di questo tipo. Dall'altra parte dice proprio per questo siamo così matti a volerli sovrapporre. Iniziamo a pensare, a sentire un po' come la pensano i nostri ascoltatori, cominciando con Roberto che chiama da Piacenza. Prego Roberto. Sì, buongiorno. Allora, io dico questo: una persona che ragiona con freddezza e non con i conti e non pensando allo stato attuale dell'economia italiana, pensare che l'Olimpiade non sia una grandissima occasione a prescindere è un delitto veramente, perché l'Olimpiade, al di là della visibilità che può essere anche marginale, ti permette, se fatta bene, un'Olimpiade sobria, di fare tutti quegli interventi, ma non solo sportivi, anche infrastrutturali, che non vengono mai fatto. Certo è che noi, come storia, come retaggio, ne accennava poco tempo fa lei, con Italia 90 ne siamo usciti con le ossa rotte. Perché se tu mi fai il San Nicola di Bari a 70.000 persone, poi lo butti via. Se fai il Delle Alpi a 60.000 persone, lo butti via. La Juventus ha dato un esempio, ha fatto uno stadio concreto, adatto alla città, ed è sempre pieno. Dobbiamo fare un'Olimpiade sobria. Ma lei ci crede? Sì, lei dice quindi proviamoci. Perché io ricordo a tutti che significa innanzitutto risolvere il problema annoso, risolto a Roma, annoso, che questo dovrebbe essere a carico dei privati, dei collegamenti con l'aeroporto del Fiumicino, che è una vergogna italiana non aver mai risolto, ma per essere chiari non c'entra niente lo sport. Però significa anche poi realizzare ex novo impianti sportivi che sono necessari per il dossier di candidatura, altrimenti non ti puoi candidare, perché il bacino remiero lì non c'è da fare, il velodromo non c'è da fare, e così via, e lì le esperienze precedenti italiane, punto interrogativo, bisogna mettere qualcuno al lavoro che dia garanzie inequivocabili che non finiamo con le impugnative e con i giudici prima ancora di cominciare, perché io ricordo come i mondiali di nuoto le impugnative sono cominciate prima, cioè eravamo a gare praticamente che si dovevano tenere, che tutti avevano già capito come finiva, per essere chiari, non esattamente una luminosa prova di fronte al mondo sportivo internazionale. Mario da Milano, come la pensa? Sì, buongiorno. Ma io stavo sentendo appunto prima i vostri commenti, non riesco a capire una cosa: fra i primi provvedimenti del governo è stata sospesa l'attuazione del ponte sullo stretto. Sì, hanno dirottato i fondi, non l'hanno proprio sospeso ufficialmente, però hanno dirottato i fondi, quindi chi vuole capire capisce. Comunque, sinceramente, tra un'altra Olimpiade a Roma, che non ha assolutamente bisogno dell'Olimpiade per avere turisti o per essere conosciuto al mondo, perché la visibilità non ho ancora capito cosa voglia dire, per Roma. La guardano miliardi di persone, miliardi di persone, sono sponsor da tutto il mondo, certo, che pagano. Ma certo, ma Roma la conoscono già. Anche miliardi di persone potrebbero guardare il ponte di Pessina, di Messina. Sono milanese, premetto questo. Comunque lei è scettico, Mario è scettico, e la ringrazio, perché sentiamo Paola da Trento, una signora, finalmente, troppe poche signore mi chiamano, io sono brutto, non riesco a attirare il pubblico femminile. Paola, prego. Non è vero, fa una trasmissione bellissima. Non era per Fishing for Compliments, però lei invece è scettica o le vuole le Olimpiadi? Guardi, io ho un comportamento, diciamo un pensiero un po' duplice, nel senso che io sono una sportiva e sarei molto contenta di avere le Olimpiadi in Italia, però purtroppo non ritengo l'Italia ancora matura a sufficienza per affrontare un impegno così gravoso, ma non dal punto di vista economico, del quale io sono fiduciosa, ma dal punto di vista amministrativo. Abbiamo troppi esempi negativi nella gestione degli appalti. Cioè lei dice una gara pubblica trasparente per fare impianti veri che costino non riusciamo a farla, questo è il punto. Questa però attenzione Paola, io siccome i fatti purtroppo le danno ragione, non torto, però se mai riusciamo a dimostrare al resto del mondo che non abbiamo nel DNA, non siamo atavicamente protesi solo a fregarci, a mettere meno cemento del previsto e a far saltare oppure a fare stima di impatto delle opere, per cui facciamo opere gigantesche che non ci servono, non riusciremo mai ad andare avanti da questo punto di vista. Quindi da questo punto di vista c'è chi dice, forti dell'esperienza, facciamolo proprio. Sentiamo ancora Alessandro da Milano e poi sentiamo i nostri ospiti come la pensano. Prego, buongiorno, dottor Giannino, mi consenta solo una battuta. Abbiamo bisogno di più ragionieri e di meno pescanti nelle nostre tasche. Ah, la metto sul personale. No, no, non sul personale. Con un deficit pauroso, con un debito così come abbiamo adesso, andiamo a spendere altri soldi, perché i costi sono certi. I ricavi sono di là da venire. Questo d'accordo. Però io adesso non la voglio interrompere. Aspetti un secondo. Pescante diceva solo, lo diceva non perché dicesse non è importante avere conti che tornano sugli impatti e su cosa avviene in termini di benefici e i flussi economici. Diceva solo, io non faccio l'economista e io mi occupo del sostegno nel mondo sportivo, nel Comitato Olimpico Internazionale. Da questo punto di vista mi tocca difenderlo, perché poi altrimenti non difendo gli ospiti. Però prego, l'ho interrotto. Lui vende il suo prosciutto. Il problema è nostro, cioè il problema è del paese. Con un debito di questo tipo l'essenziale è incominciare a diminuire questo pauroso debito che si sta trascinando nel baratro. Ma di che cosa stiamo parlando? Va bene, quindi le nostre opinioni, le opinioni voglio dire perlomeno di quelli che casualmente tra quelli che hanno telefonato abbiamo prescelto, sono come si vede fortemente prese da un impatto negativo, perché c'è poco da fare, la cricca, le cose, il mondo degli appalti pubblici e degli interessi che ci gravano intorno, nonché i precedenti come quello di Italia 90, sono uno sfondo molto negativo nell'immaginario pubblico, per quanto risponda a interessi e a istinti pavloviani, se vogliamo. Cioè, l'immaginario pubblico è sempre una cosa che si fonda su fenomeni di impatto che sono emotivi, la pancia, quindi le indagini, le richieste di rinvio a giudizio, queste cose qua, però sono un fattore di cui tenere conto, c'è poco da fare. Allora Bellino, Paolo Bellino, ripeto, direttore generale della Fondazione per Roma 2020, ha lavorato ai conti da oltre un anno, perché poi l'ultimo rapporto, quello che ricordava Pescante, affidato al professor Fortis, che è il vicepresidente della Fondazione Edison, è recente, ma insomma i lavori di stime costi-beneficio sono iniziati, ripeto, alla fine del 2010. Bellino, a tutti coloro che obiettano queste cose, che scontatamente sono l'obiezione che viene dalla pancia del paese, come risponde lei, numeri alla mano, e sono gli stessi numeri che poi alla fine dovranno convincere Mario Monti? Beh, ovviamente i numeri sono gli stessi che dovranno convincere Mario Monti. Abbiamo parlato molto spesso di Italia 90. Lei ha accennato all'inizio della trasmissione che e ha ricordato che l'Italia ha ospitato nel 2006 i Giochi Olimpici Invernali. Giochi Olimpici Invernali che, come lei ha giustamente sottolineato e su cui Mario Pescante ha dato un notevole contributo per la realizzazione, sono stati un indubbio successo e sono stati realizzati attraverso, non con l'utilizzo di leggi speciali, ma utilizzando al 100% la legge Merloni sulle opere pubbliche. E parliamo di un investimento ovviamente non dello stesso livello di quello che ci si aspetta per un'Olimpiade estiva, ma un investimento importante intorno ai 2 miliardi di euro. Non ci sono stati strascichi e soprattutto è stata un'Olimpiade di grande successo che ha lasciato un grande impatto sia in termini di investimenti che in termini di visibilità che in termini di lavoratori creati ex novo nel mercato del lavoro grazie agli investimenti olimpici e che ha dato un aumento di quasi un punto di PIL a livello nazionale. Ma questa è una premessa, perché quando siamo partiti come un'industria aspetti, precisiamo su questo che l'aumento di PIL, perché molti altrimenti sobbalzano, l'aumento di PIL è stimato in senso pluriennale, quindi l'aumento complessivo, ecco, sì, no? Non è che si cresce di PIL un punto in più perché c'è l'Olimpiade complessivo, questo ovviamente. Questo per quanto riguarda Torino 2006, quindi io vorrei, ricordiamo Italia 90, ricordiamo anche che in qualche aspetto bisogna imparare dal passato, secondo me si può imparare dal passato perché abbiamo un passato non male che è quello di Torino 2006, Torino 2006 ci sono stati degli errori, l'ha sottolineato anche lei, ci sono state delle infrastrutture, soprattutto due, Bob e Trampolino, che non hanno avuto il ritorno e l'utilizzo sperato. Io le faccio però anche un controaltare, probabilmente sono stati localizzati nel posto sbagliato, perché mettere due impianti, oppure, e le faccio un'altra provocazione, possiamo provare a ragionare a costruire delle infrastrutture che sono temporanee, come è stato fatto per esempio a Sydney. Se vi ricordate, lo stadio olimpico di Sydney era uno stadio da 100.000 posti, una parte di quello stadio è stata smontata per riutilizzarlo con uno stadio intorno ai 60.000 posti, quindi più diciamo utilizzabile e fruibile e anche più gestibile dal punto di vista economico. Quindi le modalità, ci sono varie molteplici modalità. Ricomincio da capo, nel senso che un'industria ha creduto fortemente alla candidatura di Roma sin dall'inizio, quindi ha sostenuto sin dal 2010 la candidatura della città di Roma, ha costituito nel 2010 la Fondazione per Roma 2020, che è un soggetto da socio unico in questo momento, quindi è un soggetto che ha come obiettivo quello di coinvolgere e di raccogliere le imprese, il mondo del Made in Italy, per sostenere la candidatura, e quindi ha cominciato facendo un'analisi dettagliata di costi benefici potenziali che potevano garantire uno sviluppo alla nostra città attraverso le Olimpiadi. Abbiamo fatto un'analisi che riguarda i grandi eventi, quindi non è tanto solo una questione di sport, ma complessivamente dei grandi eventi in generale. I grandi eventi generano oggettivamente delle ricadute. L'Olimpiade poi è tra i grandi eventi, è l'evento principe, perché permette comunque di capitalizzare una serie di investimenti in date certe, quindi la data di apertura, della cerimonia di apertura è immodificabile. E quindi tutte le strutture devono essere realizzate e costituite per quella data. Lei capisce che è esattamente quello che induce molte a non crederci molto. Io adesso l'ho interrotta solo perché ci abbiamo un minuto sulla circolazione stradale, poi le devo chiedere, funziona così, torniamo con i Dorsi, io rispiego due cose sull'Europa, lei mi dà i numeri fotografici e facciamo opinioni ancora finale di Pescante e di Andrea Zilli. This is the end. Ecco, io ho voluto apposta posporre rispetto all'inizio della trasmissione il giudizio su l'altra vicenda europea che ha infiammato la stampa europea in questo fine settimana, cioè quella relativa alla richiesta unofficial, non ufficiale, che i tedeschi hanno avanzato di scrivere non ad Atene il bilancio pubblico greco, di scriverlo direttamente in Europa e anzi di mandare un vero e proprio commissario ad Atene. Potete immaginare sulla stampa greca sabato e domenica che cosa è successo per reazione, cioè giornali come Katemerini oppure stazioni come Vima sono state subissate dalla reazione di centinaia di migliaia di cittadini greci che hanno iniziato a insultare, protestare, dicendo che cosa ci vogliono mandare, il Goyleiter, i signori di Berlino. Ecco, io ritengo che cose di questo tipo, se dopo due anni non abbiamo capito che servono meccanismi cooperativi e non interventi così goffi che non fanno altro che imprimere nella testa di coloro che paga il prezzo della crisi, cioè cittadini a basso reddito, che si tratta di andare di male in peggio, per di più con commissariamenti internazionali, non vuol dire che la classe dirigente europea non ha capito niente. E lo dico io che sostengo il rigore pubblico tedesco e sono il primo a dire che la Germania tra il 2001 e il 2006, prima della crisi, ha abbassato la spesa e le tasse di 8 punti e si è data produttività nell'economia privata. Però detto tutto questo, non avere capito che non si prende a calci in serio ulteriormente chi già prende i calci nel fondo e schiena, secondo me è un errore capitale delle classi dirigenti europee. Chiusa la cosa, Bellino, torniamo ai numeri e diamo qualche numero a raffica di quelli rivisti dopo un anno e mezzo di cui siete ragionevolmente certi. Allora, la spesa complessiva, e qui mi riprendo i dati dello studio Fortis, la spesa complessiva dei giochi o infrastrutture e organizzazione è intorno ai 9,8 miliardi. Questa genera delle spese turistiche, quindi delle ricadute per 5,2 miliardi e altre spese di investimenti indotti per altri 2,7 miliardi. Questo cosa vuol dire? Che c'è un impatto totale sul PIL, quindi pari al 17,7 miliardi di euro, con una creazione di posti di lavoro nel solo 2020 di 29 ULA, cioè unità lavorative, e di 12.000 negli anni antecedenti e successivi, quindi per un totale complessivo di 170.000 posti di lavoro. La crescita sul PIL, quindi sull'aumento accumulato del PIL dal 2012 al 2025, nell'Italia è stimata intorno all'1,4 punti, con una ovviamente un maggiore incremento al centro che è quasi prossimo ai 4 punti e con una intorno allo 0,5 per quanto riguarda il nord e intorno al punto percentuale per quanto riguarda il sud. L'aumento di occupazione delle unità medie di lavorative che abbiamo detto è in termini di crescita vanno dal 2015 al 2025, quindi 170.000 unità lavorative in quel periodo, e il che vuol dire che si effettuano c'è un effetto moltiplicativo degli euro investiti, che quindi da 9,8 milioni abbiamo un moltiplicatore che è 1,8, quindi ogni euro investito genera una ricaduta di 1,8 volte fino a un 17,7 miliardi. Quindi questi sono numeri decisamente interessanti. Chiudo dicendo la parte pubblica, esclusivamente pubblica di tutta la spesa. Il investimento pubblico è di 4,6 miliardi di euro. 4,6 miliardi. Questo va spalmato naturalmente in un certo numero di anni, però il più naturalmente va fatto assolutamente prima. Quindi stiamo intorno allo 0,3% del PIL. È una spesa pubblica dello 0,3% del PIL. Viene coperto da un maggiore reddito erariale, ovviamente, quasi compensato perché intorno ai 4,6 milioni di euro. Io lo ricordo tutti perché l'impatto come ordine di peso sul PIL nazionale della spesa pubblica greca fu superiore al 3% di PIL, quindi noi spenderemo in proporzione un decimo rispetto al nostro PIL. Andrea Zorgi, quando facevi riferimento alle esperienze degli errori fatti nelle altre Olimpiadi, ecco, in particolare secondo te quale dovremmo evitare di candidarci a ripetere nel caso in cui la candidatura va avanti? Ma abbiamo già accennato all'abitudine tipicamente italiana di fare dei progetti, dei bilanci che secondo me sono credibili, che poi rimangono sulla carta e non vengono realizzati. Questa è l'unica preoccupazione, ma è anche il vero limite che ha la candidatura di Roma 2020. Ne abbiamo parlato sabato a Tempo di Sport con Carlo Genta, e la stragrande maggioranza dice che non si fida, non che non vorrebbe l'Olimpiade, non si fidano. A tutti piacerebbe moltissimo e riconoscono la potenzialità di un'Olimpiade sotto vari profili, quello sportivo, quello sociale. Diciamo, per ricreare questa fiducia, secondo te cosa si potrebbe fare? È una domanda a cui devono rispondere il comitato esecutivo di Roma 2020. Devono rendersi conto che, nonostante le parole che dicono siano sincere, profonde, quindi dice, nonostante la credibilità dei numeri, vero presunto, il problema è un meccanismo di garanzia pubblica preventivo. Esatto. A Montreal nel 76 il governo canadese ha chiesto a Montreal di farsi carico degli eventuali debiti. Non venite a chiederci soldi. Hanno accettato, hanno finito di pagare i debiti nel 2006. Infatti questo è esattamente l'esempio, secondo me, che hai fatto bene, ti ringrazio a richiamare. Allora Pescante, senta che qui, ma lei lo sa perché non glielo spiego io, però oggi si ripropone la questione: meccanismi di garanzia preventivi e successivi la cui operatività dia una risposta alla domanda che è molto forte, al dubbio molto forte nell'opinione pubblica italiana piegata da tante vicende oggettive. Che cosa si può ulteriormente pensare secondo lei, Pescante? Senta, però solamente a flash mi faccia dare un po' qualche personale risposta. A delle obiezioni che sono state formulate, altrimenti rimangono dei punti interrogativi. Ma cominciamo dall'amico Zorgi che saluto. Ma lei l'ha definito critico, ma Zorgi dice una cosa che condivido al 100%, e cioè che ci si deve occupare anche e soprattutto degli aspetti culturali che devono essere legati a un evento sportivo, e qui ha perfettamente ragione. Cioè vendere solo prosciutto mi ha divertito cosa buona, però l'ascoltatore ha detto prosciutto buono, un orcino, vabbè, ha detto questo, ma ecco, se si vende solo il prosciutto dello spettacolo eccetera, ha perfettamente ragione, ma non vale la pena. La realtà però che nel nostro paese, poi, per quanto riguarda la cultura del nostro paese, caro Zorgi, devi essere d'accordo con me che sta però piano piano crescendo. Io comunque ti proibirei una cosa: non parlare più di sport minori rispetto al calcio. Va bene, io prendo Pescante, mi prendo l'impegno e devo per forza rinvitarla, perché noi dobbiamo chiudere. Io ricordo solo che a questo punto, il 15 febbraio 2012, c'è la presentazione dell'Applicant File, cioè del questionario, e le tappe successive saranno maggio 2012, la selezione delle città ammesse alla fase di candidatura, e così via fino al 7 settembre. Quindi noi seguiremo passo passo il dibattito per rassicurare gli italiani. Grazie Andrea, grazie Marina, grazie Pescato. La passione si sente.